9 in punto. La politica nel tunnel. Però a me mi sembra che questi partiti qua, tutti e tre, stanno giocando con le figurine. Te ne do due, me ne dai una, te ne do tre, te ne do due. Che la piantano e dire, lei non siamo qui mica a vendere le noccioline. Voi siete lì per noi, non per voi. Ma fate qualcosa in fretta, perché l'Italia sta morendo. E io sono uno di quelli. Buongiorno cari ascoltatrici e cari ascoltatori da Simone Spezia e benvenuti a 9 in punto. Quanto mai azzeccata nella giornata di oggi la telefonata che ci è arrivata qualche giorno fa da Angelo da Bergamo e che abbiamo deciso di tenere tutte le mattine in apertura e in chiusura di trasmissione. Quanto mai azzeccata, perché oggi è significativa, importante, la prima pagina del Sole 24 Ore, come si diceva poco fa. Un grande titolo che abbiamo deciso di utilizzare oggi come hashtag per commentare in diretta su Twitter la trasmissione, se vorrete, ed è Basta Giochi. Vengono elencate in un numero di pagine ampio, un lungo primo piano, tutti quelli che sono i problemi dell'Italia, a partire dalla prima pagina. Come si diceva, in grafica sono illustrate la pressione fiscale totale per le aziende, che arriva al 68,3%, la disoccupazione giovanile al 38%, i 73 miliardi di costo totale della burocrazia per imprese e cittadini, una ripresa che non arriva e anzi una recessione che si approfondisce, e poi tutte le scadenze fiscali in arrivo, delle quali una ve la ricordiamo tutti i giorni con il nostro countdown verso l'IVA, verso l'aumento dell'IVA, il punto di aumento dell'IVA, e poi ci sarà la TARES e l'IMU. Insomma, molti problemi da risolvere, senza contare naturalmente altra cosa importantissima, i pagamenti della pubblica amministrazione alle imprese, le sofferenze del credito. C'è tutto questo in Basta Giochi. Esaurito nella sostanza il tentativo di Bersani di formare un governo, adesso poi cercheremo di chiarire e di capire che cosa sta effettivamente succedendo, perché poi le letture anche sui giornali sono diverse, perché non c'è l'espressione rinuncia, c'è una dichiarazione di situazione non risolutiva, è apparso come una sorta di commissariamento di Bersani da parte del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, per cui insomma cercherà lui oggi, in questa una giornata intensa di consultazioni, di trovare una maggioranza. Saluto innanzitutto Valerio Nida, ex presidente della Corte Costituzionale e costituzionalista. Buongiorno. Naturalmente, buongiorno. Buongiorno. Pippo Civati, deputato del Partito Democratico, buongiorno. Buongiorno. Tommaso Labate, giornalista, un collega che ci aiuterà anche lui un po' a capire come stanno girando le cose, e anche Lorenzo Dell'Ai, capogruppo di Scelta Civica alla Camera. Buongiorno Dell'Ai. Partirei da lei, Onida. In realtà ieri, quando l'abbiamo chiamata nel pomeriggio per organizzare la trasmissione, volevamo soffermarci su quest'idea lanciata da Beppe Grillo sul suo blog. Dice: si può fare a meno del governo, può andare avanti il Parlamento. In realtà poi sono sopravvenute altre cose, tra cui quello che è successo ieri, e che le chiediamo da costituzionalista di aiutarci a capire che cosa è effettivamente successo nella giornata di ieri, nella serata di ieri, dopo l'incontro tra Bersani e Napolitano. Ci aiuti a capire, almeno per quello che ha capito lei, professore. Per quello che si può, perché naturalmente siamo informati come tutti, insomma. Non mi pare che sia successo niente di straordinario. C'era stato un preincarico dato a Bersani per la ricerca per verificare se c'erano i famosi numeri. Bersani torna dicendo che la certezza di questi numeri non c'è, mi pare che questo sia abbastanza evidente, e Napolitano ovviamente deve proseguire nel tentativo o nei tentativi meglio di dar vita a un governo, ritiene di fare un ulteriore approfondimento in maniera diretta. Professore, quello che non sono riuscito a capire è questo: il fatto che non sia indicata la rinuncia espressamente da parte di Bersani dipende fatto. L'incarico di Marco Verano non è una carica, perché viene nominato con un decreto, poi si dimette, eccetera. È un affidamento, diciamo, appunto fiduciario, che il Presidente della Repubblica dice: ma prova un po' tu. Tra l'altro non c'è un decreto di incarico, appunto. E quindi i contorni di questo incarico sono sempre sfumati, sono legati alla personalità del Presidente e alla situazione particolare. In questo momento, evidentemente, Domenizone, che aveva affidato a Bersani propriamente un pre-incarico, perché l'aveva incaricato di verificare l'esistenza delle condizioni per formare un governo, Bersani torna a riferirgli. La situazione non è appunto risolutiva, come è stato detto nel comunicato, si vuole andare avanti in questa verifica, che potrebbe preludere, vuoi l'ipotesi, anche se questo sembra poco probabile, ad un consolidamento della possibilità di formare un governo presieduto da Bersani, sia ad altri tentativi di formare il governo. Quindi ancora tutto aperto sostanzialmente. Ma il nodo è sempre quello: c'è una maggioranza, si riesce a formare una maggioranza in Parlamento, perché il governo per formarsi ha bisogno di questa maggioranza, è tutto qua. Pippo Civati, mi sembra che la palla sia nel campo del 5 Stelle in questo momento. Stamattina pare che facciano un'assemblea, anche se non è ancora certo, forse l'indicazione arriverà da loro, scrivono alcuni giornali. Sì, è un po' tardissimo, direi, visto che usiamo espressioni curiose in questi giorni. Se il 5 Stelle avesse voluto dare un contributo, avrebbe potuto spiegare a Bersani, hanno voluto la diretta streaming, quale migliore occasione per fare un nome sul quale far riflettere il presidente preincaricato, che forse non lo sarà purtroppo, e tutto il Partito Democratico. Insomma, io credo che il titolo del Sole 24 Ore vada benissimo, basta giochi, ognuno ha detto cosa pensa di poter fare, che cosa pensa sia giusto fare. A questo punto oggi veramente è l'ultimo giorno, e poi giustamente il presidente Napolitano tirerà le somme e i partiti con lui. Non credo che ci siano altre chiacchiere da fare intorno all'argomento. Com'è la situazione all'interno del partito? Perché su questo sono circolate molte voci nelle scorse ore. Si dice che c'è una parte favorevole ad un governo del presidente, una parte che addirittura vorrebbe andare a votare subito. Lei come la vede? La vedo come la sta descrivendo lei, nel senso che ci sono ovviamente idee e sensibilità diverse. Il PD è un partito che ha moltissimi parlamentari per via della legge elettorale che conosciamo, per cui è naturale che ci siano componenti, ad esempio i sostenitori di Renzi, che pensano che sia il caso da subito di vedere possibile un accordo con il PDL, l'hanno detto a più riprese, altri come me che pensano che questa ipotesi sia quantomeno bizzarra, visto anche l'esito del governo Monti, quello che è successo in aula, l'intervento di Renato Brunetta l'altro giorno, che è stato durissimo contro Monti, contro quel governo, contro quell'impostazione che Napolitano ha fortemente voluto, per cui insomma ci sono opinioni diverse. Ovviamente rispetto a quello che Napolitano dirà oggi, dopo aver sentito tutti i gruppi politici, noi prenderemo una decisione e non ne discuteremo, mi auguro con meno tono unanime, perché finora abbiamo votato le relazioni del segretario come se fossero oro colato, quelli che non erano d'accordo sono stati in silenzio. A questo punto è giusto confrontarsi seriamente. Però non ho capito qual è la sua divisione, cioè piuttosto che un accordo col PDL, voto subito, in questo momento, in un momento così difficile? Sì, guardi, perché quello che dice Grillo è una banalità, cioè il governo c'è, si chiama Monti, se si deve andare a votare c'è una personalità che abbiamo ripetuto per un anno in Europa può rappresentare la tranquillità di un paese che da questo punto si vuole dare una classe dirigente. Fare un altro pasticcio come quello che è finito miseramente il 7 dicembre, come ricordava giusto appunto Brunetta l'altro ieri in aula, forse non è la cosa migliore. Non so a chi parlerebbe, francamente, non so cosa potremmo fare con il PDL in pochi mesi. Abbiamo già provato, abbiamo visto che è praticamente impossibile, e francamente non capisco perché il PD deve sempre essere responsabile in termini generici. Noi siamo responsabili, tanto che abbiamo presentato il nostro segretario con un progetto di governo, ci siamo rivolti, come ricordava giustamente lei, al Movimento 5 Stelle su un'ipotesi di cambiamento che è stata platealmente respinta sulla base di un pregiudizio, perché si ricorda, i due rappresentanti dei 5 Stelle non hanno detto di non essere d'accordo sul merito, hanno detto semplicemente che non si fidano di noi. Quindi, insomma, più di così, sinceramente non capisco davvero come potremmo rovesciare la nostra impostazione che abbiamo scelto dopo averne discusso e arrivare a un governo che non so neanche quanto potrebbe durare, perché al primo intervento difficile come quello che giustamente scrive oggi il giornale, non so davvero cosa potrebbe capitare. Berlusconi ha fatto cadere il governo prima che si potesse fare la legge elettorale. Non so perché non dovrebbe farlo più, cioè non ho elementi diversi sui quali ragionare, a meno che ovviamente non ci sia un governo che duri un mese, perché c'è una legge elettorale sulla quale tutti possono convergere, per esempio, questa potrebbe essere una soluzione. Comunque si parla davvero di poco tempo, perché l'esito delle consultazioni di Bersani ieri dice voto, dice questa cosa per ora. Dell'AI, che cosa... oltre ad ascoltare, naturalmente, perché questa è una premessa quasi ovvia, quindi nemmeno gliela faccio fare, oltre ad ascoltare il Presidente della Repubblica, che cosa andrete a dire al Presidente della Repubblica oggi? Ma guardi, diremo quello che abbiamo già detto nella prima fase delle consultazioni e quello che abbiamo detto anche al Presidente incaricato Bersani, vale a dire che se i partiti pongono veti e pregiudiziali non se ne esce e che dunque dal nostro punto di vista c'è la piena disponibilità, con grande senso di responsabilità, a farci carico dei problemi del Paese. Certo, bisogna però fare i conti con la realtà. Sentivo prima il collega Civati che mi diceva le cose che ha detto. Figurarsi, io appartengo a un partito il cui leader è da giorni, anzi da settimane, nel mirino della PDL, con attacchi volgari e assolutamente inaccettabili. E tuttavia bisogna avere un principio di realtà, e la realtà dice che in questo Parlamento c'è una maggioranza alla Camera e non c'è una maggioranza al Senato, e dunque non resta che quello che abbiamo detto fin dall'inizio, trovare un compromesso. Io uso questo termine e vedo che molti colleghi quasi si scandalizzano, ma la politica è compromesso. Compromesso è una parola nobile, non è una parola deteriore. Quando si è in una situazione come questa, con il Paese che torna ad un'emergenza ancora più forte tra un po' rispetto a quella del novembre del 2011, con il quadro internazionale che è quello che è nei nostri confronti, con i cittadini che dicono molti quello che diceva il cittadino di cui avete trasmesso l'esortazione all'inizio della trasmissione, beh, quando si è in una situazione come questa non si può che trovare un compromesso, e in qualsiasi paese europeo il compromesso sarebbe stato e sarebbe quello di un governo di larga coalizione finalizzato a fare poche cose in un tempo ragionevole per poi tornare al voto con una nuova legge elettorale oltretutto, e questo non è possibile perché noi ci trasciniamo dietro veleni e una lunga storia di inconciliabilità da questi 20 anni. Siamo ancora al 94, Berlusconi e anti-Berlusconi, io appartengo alla categoria dei non berlusconiani, lo sono sempre stato, però non ne possiamo più di questa cosa, il Paese deve uscire da questo vicolo cieco. Ecco che noi diremo dunque che siamo disponibili, se ci sono le condizioni, per prendere la nostra quota parte di responsabilità. Siamo molto scettici perché vediamo che addirittura anche la strada in sé molto stretta, molto, molto perigliosa, del cosiddetto doppio binario, no? Sul quale il presidente Napolitano aveva dato l'incarico a Bersani qualche giorno fa, pure si è scontrata su veti, contro veti, richieste probabilmente inaccettabili di garanzie da un lato, preoccupazioni di contaminazione dall'altro. E quindi pur con questo scetticismo andremo a dire che Scelta Civica è naturalmente a disposizione delle valutazioni che il Presidente farà, con l'auspicio veramente che si giri pagina da questo punto di vista. Oltretutto vorrei anche aggiungere, non è vero che il governo Monti è miseramente, virgolette, finito. È vero semmai che qualcuno si è tirato indietro, ma anche questo, insomma, io ho l'impressione che quasi da parte delle forze politiche ci sia quasi una volontà di sai come quando finisce l'anno nuovo, l'anno vecchio e nasce quello nuovo, si brucia il pupazzo che rappresenta l'anno vecchio, pensando di buttarsi alle spalle tutti i problemi. E così qualcuno fa col governo Monti, ma guardate che non è così. La linea dei sacrifici, delle scelte dure che dovremo fare, ci sarà anche nel prossimo periodo, ecco perché serve veramente un governo che rappresenti un atto di grande responsabilità. Tommaso Labate, io sento odore di voto sempre più forte. Beh, Simone, diciamo potresti non sbagliare, d'altronde se è vero, come diceva prima l'onorevole Dell'Ai, che tutti i protagonisti in gioco si ripresentano al Quirinale, come loro ripetono la stessa cosa che hanno detto nella giro di consultazioni precedenti, a questo punto è ovvio che saremo di fronte a una strada senza uscita. Ieri in realtà è successa una cosa molto più semplice e istituzionalmente molto più complicata di come, diciamo, sia stata forse spiegata oggi, cioè nel senso che Befani tanto da Napolitano con un obiettivo fallimento, col fatto che non esiste la possibilità che questo governo nasca, ma allo stesso tempo, diciamo, è un po' riuscito a dimostrare a Napolitano che nessun altro possibile governo ha le condizioni date a, come dire, la possibilità di prendere più consensi dal punto di vista numerico. È alla Camera dove questo ragionamento è ovvio, visto che il PD e il centro-sinistra conta su una larghissima maggioranza, e al Senato. Tommaso, abbiamo un problema col telefono, ti sento male, poi ti riprendiamo, però vorrei ritornare al professor Onida, che poi ci deve salutare, insomma, quindi abbiamo ancora un paio di minuti con lui. Due domande molto rapide, professore. Allora, la prima riguarda appunto il tema per il quale avevamo chiesto di intervenire, che è quello che sostiene Beppe Grillo, insomma, si può far partire, lavori il Parlamento intanto sulle leggi, e insomma al governo ci si pensa con calma, non è che c'è tutto questo bisogno del governo. Il secondo punto è dove si innesta questo momento complicato, nel senso che i giochi tornano nelle mani del Presidente della Repubblica, del Quirinale, esattamente come un anno e qualcosa fa, e questo comporta anche che la scelta del prossimo inquilino del Quirinale, se veramente si fa un governo di coalizione o appunto un governo di scopo, debba essere, insomma, questo deve necessariamente incidere sulla scelta, cioè ci vuole una figura paragonabile a Giorgio Napolitano. Professore. Ma sì, sul primo punto, naturalmente non è vero che possiamo vivere senza governo, che basta il Parlamento, è evidente. Il governo serve perché la gran parte delle attività dello Stato poi passano proprio attraverso il governo, l'amministrazione non può essere lasciata a se stessa, eccetera. Ma può essere vero, sottolineare, che il Parlamento può lavorare anche in assenza di un governo che abbia già ottenuto la fiducia, può lavorare nel senso di fare delle leggi, per esempio il tipico caso della legge elettorale, perché dovrebbe dipendere da accordi di governo? Se ci fosse, io mi augurerei che ci sia un possibile accordo per fare una migliore legge elettorale, perché quasi tutti convengono sul fatto che questa legge elettorale è pessima, e se non altro è pessima perché consente di giocarsi il tutto per tutto, diciamo così, c'è la possibilità di governare sulla roulette di un voto in più degli altri, anche quando siamo a quote molto basse di consenso. Quindi se si raggiungesse un accordo per fare una migliore legge elettorale, questa potrebbe essere fatta dal Parlamento, indipendentemente dalla formazione di un governo, dalla creazione di una maggioranza di governo. E così anche altre cose che il Parlamento naturalmente può fare, altre leggi può approvare in assenza di governo. In questo senso, quindi, si può dire che è esatto, ma fino a un certo punto la tesi secondo la quale si può procedere. Sull'altro tema, certamente lei ha sottolineato il punto chiave, cioè nella delicatezza della situazione attuale, nel nodo non ancora sciolti, c'è evidentemente un sottinteso, cioè il problema dell'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che tra l'altro, lo ricordo, è necessaria premessa perché si possa arrivare al voto, perché lo scioglimento delle Camere in questo momento non potrebbe essere disposto dal Presidente uscente, potrà essere disposto solo dal nuovo Presidente della Repubblica, quando appunto sarà scaduto il cosiddetto semestre bianco. Allora, è chiaro che questo è un nodo, però ecco, qui si potrebbe mostrare la responsabilità delle forze politiche, se cioè si riuscisse a convenire a sufficienza sulla scelta del Presidente della Repubblica senza farne oggetto di mercanteggiamento a te il Presidente del Consiglio, a me il Presidente della Repubblica. Questo sarebbe un pessimo modo di procedere. Il Presidente della Repubblica non è parte di un accordo di governo, non può e non deve essere parte di un accordo di governo. Deve essere una figura che rappresenta l'unità nazionale, quindi che esprima il più possibile tutto il paese, gli equilibri, le sensibilità di tutto il paese. Ecco, certamente oggi se i partiti riuscissero, nonostante i loro dissensi insanabili che non hanno ancora condotto ad una ipotesi di governo, almeno a convenire, a mettersi d'accordo per eleggere un nuovo Presidente della Repubblica che sia un rappresentante dell'unità nazionale, ecco che allora probabilmente si avrebbe poi una strada più spianata per attivare la normale dialettica politica che in Parlamento avrebbe luogo alla formazione della maggioranza, opposizioni, eccetera. Grazie al professor Onida, buona giornata. Noi adesso ci prendiamo una pausa e poi sentiamo anche qualche ascoltatore. A tra poco. 9 in punto. Iniziamo a sentire qualche ascoltatore, se volete poi potete scriverci anche su Twitter, l'hashtag è BastaGiochi, oppure scrivete direttamente a me, Simone Spezia, se volete. Sentiamo Andrea che ci chiama da Chieti, buongiorno. Buongiorno. Prego. Ascolti, io voglio esprimere un malessere, una delusione, un senso di profondo sconcerto che mi porto dentro dal 24 febbraio in avanti, dal giorno delle elezioni. Io credo che questo paese ha perso una grandissima occasione quel giorno, forse l'ultima per risollevarsi, quella di avere Pierluigi Bersani Presidente del Consiglio, perché a mio avviso quest'uomo, oltre che avere una grande esperienza politica, ha un profilo etico e morale elevatissimo, un senso delle istituzioni, della legalità, un rispetto per le istituzioni e soprattutto ha dimostrato in passato di avere a cuore gli interessi del paese e non il proprio tornaconto. È stato l'unico con le sue lenzuolate a cercare di scardinare le rendite di posizione e la dittatura degli albi professionali e delle lobby. Io non riesco ad accettare quando gli viene rimproverato di non essere capace di parlare alla pancia degli italiani. La verità è che lui non sa fare il Vannamarchi, non è un venditore di fumo, non è capace di andare su un palco e dire vi restituisco l'IMU quando sa benissimo che non c'è la copertura. Andrea, sì. abbiamo capito. Però insomma, capisco la delusione, almeno insomma, non è che la capisco, insomma, comprendo che lei possa essere deluso, però purtroppo la situazione è quella che è. Sentiamo Fausto da Ischia, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Senta, io sarò breve. Considerato che la politica, diciamo, è la droga della vanità, secondo me, noi siamo vittime e curiamo da troppo tempo lo snobismo arrogante della sinistra e quindi di Bersani, il Prodomomea e il privato della PDL che sarebbe il Berlusconi, e ora siamo costretti anche a curare le follie o perlomeno il criticare prendendo a base il preilluminismo e il postilluminismo di Grillo. Ma dico io, vogliamo smetterla? Io spero, poiché sono molto agé, direbbero i francesi, io spero che il Presidente della Repubblica, nella sua saggezza, faccia un governo breve, conciso e compendioso, che faccia quelle 5-6 leggi che ormai ci tormentano da secoli, perché ormai è così, l'unità d'Italia è stato un grande casino, e che faccia questo perlomeno per darci un po' di tranquillità. Grazie anche a lei, Fausto. Civati, ma appoggio ad un nome indicato dai 5 Stelle, che sia un nome terzo eventualmente, non è proprio possibile, secondo lei, da parte del Partito Democratico? Dipende dal nome. Se i 5 Stelle facessero un nome credibile, che è capace di avere una funzione di governo e di svolgere un ruolo esecutivo come quello del Presidente del Consiglio, secondo me dovremmo buttarne tutti, insomma noi, Scelta Civica. Non credo che nessuno abbia quello snobismo che ci rimprovera l'ascoltatore, cioè dobbiamo confrontarci, la situazione è quella che descrivevamo, Dopodiché dipende, però purtroppo in politica i nomi, i cognomi sono importanti, e Grillo continua a dire sono importanti, ecco, le cose da fare. Ecco, uno Zagrebelsky che viene citato continuamente in questo periodo come uno dei nomi che tra l'altro è un nome votabile, per esempio, come, cioè, un nome a cui si può dar la fiducia. Sì, è più da Quirinale che da Premier, per dirla tutta. Però sicuramente è un nome su cui si può intavolare una discussione. Finora la cosa che ho rimproverato personalmente dal mio blog e negli interventi pubblici ai Grillini è proprio quella di non avere scelto la strada di un confronto su cose concrete e possibili, a cominciare dal programma che descrivevamo prima, che è stato rifiutato per mancanza di credibilità, e poi dal nome che deve interpretare il futuro governo. Lo ripeto, se c'è da fare un governo tecnico con i presupposti che sappiamo, con forze politiche così lontane, ci teniamo Monti e si va a votare, perché non capisco perché dover cambiare il cognome di un governo che sarebbe uguale al governo Monti. Lo dico sinceramente senza intento provocatorio. Se il progetto è più ambizioso e si vuole rischiare il PD come il Movimento 5 Stelle, come la stessa Scelta Civica, possiamo avviare una discussione diversa. E dico a Dell'Ai, io Dell'Ai l'avrei pure votato Presidente della Camera, per intenderci, non c'è nessuna preclusione, nessuna volontà di negare una possibile alleanza. L'unica cosa che diciamo è che l'alleanza deve essere credibile, tutto qui. Se fosse un nome di garanzia, Dell'Ai, un nome proposto dal 5 Stelle, potrebbe andare come Presidente del Consiglio? Voi ci stareste? L'idea di dire no, nel senso che a me pare che la visione generale, l'idea di democrazia rappresentativa e le opinioni sulle grandi questioni del paese, dall'Europa alla politica economica, che sono portate avanti dal Movimento 5 Stelle, sono lontane mille miglia da quello che noi riteniamo sia l'interesse nazionale. Noi siamo convinti che bisogna lavorare in altra direzione. Vorrei cogliere l'occasione per dire, però, rispetto alle cose che ho sentito prima, tre rapidissime osservazioni. Primo, dagli umori del popolo, che si esprime anche attraverso la vostra trasmissione, si capisce che cosa accadrebbe, non dico in termini di voto per Tizio o per Caio, ma in termini di clima, se questa legislatura abortisse e si tornasse subito al voto senza aver fatto nulla per gli interessi degli italiani. Sarebbe un clima veramente difficilissimo. Secondo, escluderei che la soluzione possa essere che il governo Monti va avanti e si occupa dei problemi della comunità. E nel frattempo i due partiti principali continuano la campagna elettorale, magari prendendosela col governo in carica e con quello che è stato fatto o non è stato fatto. Ecco, questa mi sembrerebbe una soluzione veramente poco plausibile. Terzo punto, il rischio che io vedo sul piano squisitamente politico è se i partiti non hanno il coraggio di fare un compromesso che rilanci anche una riflessione un pochino più di prospettiva. E il rischio che vedo è che si vada ad una campagna elettorale polarizzata intorno a un rischio da una parte, se mi permetto di dire così, di progressiva grillizzazione del Partito Democratico, e dall'altra parte una polarizzazione su quello che sembra un po' essere il peronismo della destra. Ecco, guai all'Italia se accadesse questo. Bisogna riflettere con molta pacatezza, con molta serietà, perché ho l'impressione che ci mettiamo verso quello che io ho definito un po' il buco nero della politica, ecco, della politica quella vera, perché fino ad ora noi ci siamo occupati di immagine. Insomma, abbiamo votato un mese fa, ci siamo occupati di noi, dell'immagine che dobbiamo trasmettere ai cittadini, tutte cose molto giuste. Ma tolta la parentesi della discussione in aula sui risultati che il governo Monti ha ottenuto in Europa in tema di patto di stabilità e pagamento dei debiti alle imprese, non abbiamo neanche incominciato a fare l'agenda dei temi dei cittadini e delle imprese. Ecco, questo io penso che sia una riflessione che riguarda tutti, incominciando da noi, non sto facendo prediche agli altri. Un motto di responsabilità imporrebbe, io credo, di mettere un pochino in ordine nella scala delle priorità gli interessi generali rispetto ai legittimi interessi di parte. Ritorniamo da Tommaso Labate, speriamo che adesso il telefono si senta un po' meglio. Mi senti, Simone? Sì, adesso ti sento perfettamente. Insomma, si stava dicendo, insomma, un po' oggettivamente un po' di profumo di voto c'è a questo punto, insomma, probabilmente non ne abbiamo bisogno, e come notava anche Dell'AI, anche da quello che sentiamo dai nostri ascoltatori, non ne sentono il bisogno nemmeno loro. Insomma, ci vuole probabilmente un governo che faccia qualcosa, magari appunto un governo di scopo. Anche il titolo del Sole 24 Ore di oggi lo dimostra, questo basta giochi enorme che campeggia sulla prima pagina. E però è indiscutibile che il profumo di voto c'è. Insomma, ritorno sulla domanda di prima perché ti abbiamo sentito poco. D'accordissimo con te, d'altronde penso che il titolo del Sole 24 Ore interpreti, nonostante diciamo le differenze di ciascuno di noi si declinino in maniera diversa a seconda di comune uno la pensa, il sentimento generale del paese. Il problema è che io ricorderei che persino un governo che faccia la sola legge elettorale è adesso davvero difficile da vedere, primo perché non sappiamo che legge elettorale potrebbe mettere d'accordo tre partiti che di fatto si equivalgono, secondo perché se ci ricordiamo del precedente del governo Ciampi, una legge elettorale riuscì a portarla a casa, non possiamo dimenticare che quella stessa legge elettorale, cioè il Mattarellum, era di fatto il frutto di un referendum sull'abolizione della preferenza unica che di fatto lasciò il governo Ciampi e a quel Parlamento una strada già spianata, di cui adesso non si intravede neanche all'orizzonte. Per cui è veramente difficile, diciamo, è facile che si ritorni al voto, ma è difficile che si ritorni con una legge elettorale diversa, che a prescindere dal fatto che i candidati alle singole coalizioni possano cambiare, è difficile trovarsi di fronte a un esito diverso, perché le partite contese dal punto di vista regionale del Senato, che dove il premio di maggioranza viene assegnato regione per regione, sono pochissime. Penso che soltanto il Piemonte, se non ricordo male, sia finito al photo finish, tra l'altro in favore della coalizione ha vinto la Camera. Aggiungo un'altra cosa rispetto a quello che sia Civati che Dell'AI dicevano del Movimento 5 Stelle. Sì, forse è una questione di nomi, su questo non lo mettiamo in dubbio. Però il Movimento 5 Stelle, che ieri per voce di Grillo attraverso il suo blog ha invitato a mantenere un governo che disbrighi gli affari correnti e un Parlamento a funzionare, è credo l'unico movimento che fino ad oggi non ha presentato neanche una proposta di legge. Sarebbe stato più facile e diciamo avrebbe contribuito a dipanare più di una matassa se nel dire il loro scontato, ne hanno tutto il diritto, a Bersani, il Movimento 5 Stelle si fosse presentato con delle proposte, per esempio articolate, per dare un senso a quello che vogliono dire quando parlano di conflitto di interessi, di riordino delle frequenze, di legge sulla corruzione, perché con un disegno di legge articolato si sarebbe potuto per esempio capire se al di là della fiducia, che in questo caso non sarebbe stata accordata, su determinati provvedimenti era già possibile andare avanti e approvarli. È singolare che questa idea che il Parlamento debba funzionare anche senza un governo o mantenendo il governo in carica arrivi proprio da chi questa funzione non l'ha ancora utilizzata. Sì, questo è un ragionamento interessante, da dire che probabilmente, adesso non è che qua si vuol difendere il Movimento 5 Stelle, però da dire che probabilmente c'è anche un po' di inesperienza da questo lato che sicuramente pesa, inesperienza dico non solo dei singoli parlamentari ma anche di apparato di partito evidentemente. Comunque secondo me è un tema che è sul piatto e sul quale probabilmente bisogna ragionare. 9 in punto. Qualche tweet che ci arriva con l'hashtag basta giochi. Ci scrive Pablo: hanno avuto un anno per cambiare la legge elettorale, ma dai responsabili se ne sono fregati, adesso scaricano il barile. Claudio: speriamo che si vada a votare, ho votato Movimento 5 Stelle ma mi ha deluso, ha perso la sua occasione, voterò PD e come me molti altri. Deborah invece commenta quello che ha sentito in onda: tutti distanti da tutti, meravigliosa coerenza, forza centrifuga che farà a pezzi l'Italia. Ugo ci chiama da Bolzano, buongiorno. Buongiorno. Quello che volevo dire, sento ogni tanto parlare di quello che succede negli altri paesi, come gli altri risolvono. Il problema nostro a tutti i livelli, non solo politico, è una mancanza di visione che superi un confine temporale di una settimana, di un mese. Adesso si devono mettere d'accordo per una legge elettorale, ma se tutti pensano all'interesse proprio nelle prossime elezioni non verrà fuori nulla di giusto. Dobbiamo per una volta sforzarci a tutti i livelli di avere un quadro d'insieme, di vedere cosa vogliamo essere e cosa vogliamo diventare, perché finché ragioniamo a quello a mangiare oggi e a sopravvivere domani, noi sopravviveremo nella migliore delle ipotesi, ma non vivremo mai bene. Questo era quello che volevo dire a tutti i livelli, per tutte le parti, e l'ultimo appunto è un po' di snobismo intellettuale da parte del PD, lo si vede in ogni manifestazione. Mi dispiace notarlo, però già quando leggo l'Italia giusta e gli altri chi sono? Grazie Ugo, sentiamo anche Danilo da Milano, buongiorno. Buongiorno, mi sente? Sì, Volevo dire semplicemente questo. Il signor Bersani purtroppo ci è stato imposto dall'apparato del partito. Le primarie sono state studiate per fare vincere Bersani. Bersani non è l'uomo di apparato che è offuscato da problemi ideologici che devono essere assolutamente superati. Non si può governare con questa ideologia. Il signor Renzi era l'unico che avrebbe potuto attrarre voti anche dal centrodestra ed è stato fagocitato dall'apparato del partito. Ora, l'unica cosa, quando io ho votato PD alle precedenti, le ultime. Sì, stringa un po' Danilo, sì. Sì, subito, a votare 5 Stelle quando in Parlamento un galantuomo del PD propose la legge di abolire la possibilità ai deputati in corso di legislatura di passare al gruppo misto, formare un partito con uno solo, prendere soldi dallo Stato e tutto questo bene. Grazie Danilo, sentiamo anche Mario da Modena, buongiorno. Breve, mi raccomando Mario, perché se no non ne usciamo più, Mi sente proprio? Sì, perfettamente. Allora, io penso che tutto si risolverà a breve con un governissimo, magari con un nome che sembri super partes, ma non tanto per un senso di responsabilità e di interesse generale per il paese, quanto per l'ennesimo interesse personale dei nostri parlamentari. Se si tornasse alle elezioni, chi c'ha da rimettere di più sono certamente i parlamentari alla Camera del PD, perché tornerebbero con un segretario diverso, certamente Renzi, e la maggior parte di questi, anche ottenendo una maggioranza, non ci sarebbero più in Parlamento, perché Renzi arrivando spazzerebbe via assolutamente tutto. Motivo per cui improvvisamente salterebbe fuori il senso di responsabilità, il bisogno del paese, quando purtroppo nasconderebbero un proprio interesse per l'attaccamento alla poltrona. Grazie. Grazie Mario. Civati, è il secondo che vi dice che siete... Io rifiuto questa apertura, però sinceramente, sì. Sono il primo che dice che vado a casa domani, il PD ha eletto tantissimi giovani che Renzi non spazzerebbe via perché sarebbe matto a farlo, si discuterebbe ovviamente attraverso le primarie di chi ricandidare come premier e come parlamentare, per cui adesso vedremo se i giovani del PD sono diversi, come dicono tutti quanti io per primo, da quelli che ci hanno preceduto, però insomma l'illazione mi sembra un po' pesante, io sto dicendo esattamente il contrario di quello che ci è stato attribuito. Questa è la risposta all'ultimo ascoltatore, mentre invece sono ben due che vi accusano di snobismo culturale, insomma, anche questa vicenda di Renzi che andrà ad Amici, no? Ho visto scatenarsi in rete un po' di cose che dicono: ma insomma, ma non è possibile che alla prima puntata di Amici di Maria De Filippi nella casa del nemico vada Matteo Renzi. Adesso così alleggeriamo un po'. Figa più che altro. Porta sfiga perché c'è un casino, è l'inizio di una tragedia elettorale molto simile a questa, se non ricordo male. Lo dico ridendo perché, cioè, da una parte parliamo dei grandi problemi del paese e poi ci dedichiamo per mezza giornata a discutere della partecipazione di Renzi ad Amici. Ecco, troviamo una misura alle due cose, perché stiamo diventando veramente quel circuito politico mediatico, come si suol dire, che poi allontana le persone dalla politica. Parliamo di cose serie. Se c'è un governo di coppia, qual è lo scopo? Questa è la domanda che si sta facendo tutti, che ha formulato. parlato benissimo Tommaso Labate prima, che preoccupa anche me. La legge elettorale quale? Perché l'abbiamo già vista. Gli interventi sull'economia dell'AIFA viene a richiamarci la responsabilità, e noi l'abbiamo dimostrata verso il governo Monti fino all'ultimo. Ma quali sarebbero? Perché poi capisce che le posizioni sono diversissime tra loro, insomma. Quindi questo è il punto. Io non sono contento di rimettere la voce e la parola in mano agli elettori, però non vedo altre soluzioni, soprattutto dopo aver fatto 2 o 3 sedute della Camera, in cui il clima non è teso, è di più, insomma, è qualcosa di, come dire, che rende inavvicinabili le parti, anche il governo e la forza politica che Mario Monti interpreta, perché è stato oggetto di attacchi veramente superficiali e molto grevi anche nei toni e nei contenuti, per cui non so davvero come potremmo fare se non un pasticcio. Questa è la mia preoccupazione. Dell'AI, in chiusura, abbiamo veramente un minuto. Prego. Ci dia qualche percentuale. Quanto lo vede vicino il voto? Ahimè, purtroppo lo vedo molto vicino e questo preoccupa non tanto per le ragioni delle parti, come dicevamo prima, ma per un clima che nel paese sicuramente peggiorerà, e lo vedo preoccupante anche per la ricostruzione di ciò che veramente manca in questo paese, e secondo me manca proprio la politica. Manca la politica intesa nel senso vero, qui stiamo facendo spettacolarizzazione della politica, la politica è ridotta a segnale, tutti siamo preoccupati di dare ai cittadini dei segnali, che sono anche giusti, ma durano lo spazio di un talk show televisivo, di un'edizione del giornale, e i problemi del paese restano, e quindi io sono molto preoccupato, piuttosto scettico sulle possibilità di uscirne in maniera forte, però devo anche essere fiducioso nel capo dello Stato e nel tentativo estremo che il capo dello Stato oggi sta facendo. Ripeto, noi daremo il massimo di disponibilità a questo tentativo. Civati, secco per chiudere, voto vicino dunque, molto vicino? Temo proprio di sì, con le preoccupazioni che Dell'AI descrive benissimo. Grazie a Pippo Civati, a Lorenzo Dell'AI, a Tommaso Labate per essere stati con noi, e grazie a Paolo Corleoni in regia, Franco Piantanide in assistenza, Laura Faggin in redazione. Un grazie a tutti voi per l'ascolto, ci sentiamo naturalmente lunedì con 9 in punto. Domani invece, se vorrete, come sempre c'è Voto Antonio, la trasmissione che dedichiamo al rapporto tra internet e politica, e ci soffermiamo su quello che è stato il tema della settimana. Parleremo dello streaming, di questo streaming dell'incontro tra il Movimento 5 Stelle e il PD. Dunque, a domani oppure a lunedì. Se non ci sentiamo prima, buona Pasqua a tutti. Ricordati! Mancano 93 giorni all'aumento dell'IVA. Però a me mi sembra che questi partiti qua, tutti e tre, stanno giocando con le figurine. Te ne do due, me ne dai una, te ne do tre, te ne do due. Che la piantano e dire lei non siamo qui mica a vendere le noccioline, voi siete lì per noi, non per voi, ma fate qualcosa in fretta, perché l'Italia sta morendo e io sono uno di quelli. Radio 24, la passione si sente. 9 in punto.